Le vent dans les haubans. Buonasera. Ma cosa c'è dentro? Microfono. Eh? Microfono. Con qualcosa per l'evento. No. Sì. Che cosa dire? No. Sulle suoni di Bardonecchia? Eh? Sulle suoni di Bardonecchia. Tutti su ha preso i suoni di Bardonecchia? Sì. Ah. Sì, hai che cosa? Dove dimmi. Non so, no. Riesci a registrare quanto sono incazzato? E non c'è un po'? Credi?